Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La Russia replica alle accuse. In Siria stiamo colpendo l'ISIS e non ci risultano civili feriti. Nuovi raid, riferisce la BBC. Le piogge intense colpiscono la Sardegna, esonda di nuovo il torrente di Olbia che provocò l'alluvione del 2013 nella quale morirono 16 persone. Tornano in aula al Senato le riforme costituzionali e torna lo scontro sul voto segreto, via libera l'emendamento che permette di escluderlo. Sale di oltre l'1% il potere d'acquisto delle famiglie in un anno, scende il rapporto tra deficit e PIL, stabile la pressione fiscale. Il sindaco di Roma Marino sul Papa: se avessero chiesto a me non avrei risposto. Tegola, ATAC, si dimettono i vertici dell'azienda di trasporto pubblico locale della capitale. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Prima di andare a parlare di Siria e dei bombardamenti della Russia, dei raid della Russia, lo faremo tra un attimo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, ci sono aggiornamenti importanti sul fronte politico, perché come sentivate dai titoli è appena stato dato il via libera all'emendamento che permette di fatto di escludere il voto segreto e, per così dire, tranquillizzare la maggioranza. Ci colleghiamo con Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Sì, è così Simone, buongiorno. L'aula di Palazzo Madama ha da poco approvato questo contestato emendamento, cosiddetto emendamento canguro, che era firmato dal renziano, dal democratico Kocianic, e saltano quindi tutti gli altri emendamenti che erano stati presentati all'articolo 1 del DDL Boschi e saltano anche i 19 voti a scrutinio segreto che erano stati autorizzati. I sì sono stati 177, i no invece 157. La maggioranza ha superato dunque senza problemi questo primo scoglio di giornata. L'aula del Senato ora inizierà invece ad esaminare il cuore del provvedimento, cioè l'articolo 2, e in questo caso sono 6 i voti segreti in programma. Come chiedevano governo e maggioranza ieri, il presidente del Senato Grasso ha dichiarato ammissibili soltanto gli emendamenti al comma 5 di questo articolo, e tra questi c'è anche quello sull'eleggibilità dei futuri senatori, che è arrivato, lo ricordiamo, dopo l'intesa raggiunta all'interno del PD. Le opposizioni dal canto loro continuano a protestare. In aula c'è stato anche un botta e risposta polemico stamattina fra Mauro dei Popolari dell'Italia per l'Italia e il presidente Grasso. Sentiamo questo battibecco, poi la linea può tornare allo studio. C'è poi l'elemento e fattore alzata di sopracciglio del presidente del Consiglio, ma anche questo è opinabile che si debba e si possa tenere in conto. Allora, non crede che sia più opportuno che in una giunta, non le permetto di fare allusioni che un'alzata di sopracciglio di chiunque possa determinare l'ordine degli emendamenti che è stato fatto con attenzione dagli uffici? No, io non faccio allusioni. Questo non glielo consente. Allusioni, perché tutto è fin troppo evidente. Questo è lo scontro dunque che c'è stato questa mattina, si inizia a votare quindi sul merito tra poco. Grazie nel frattempo al nostro Andrea Viali per questo aggiornamento di una notizia di pochi istanti fa. Veniamo alle vicende della Siria. Da ieri la Russia, come sapete, sta bombardando. Oggi il ministro degli esteri di Mosca ha negato che gli aerei abbiano colpito solo postazioni di ribelli non legati all'ISIS. Vogliamo fare il punto con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti voi. Allora, Alberto, la tua impressione, la tua lettura da conoscitore anche di quello che succede a livello internazionale è che, come dire, le parole di Lavrov siano da prendere per vere oppure no? Perché ieri si sono diffuse queste notizie secondo le quali la Russia non avrebbe colpito obiettivi dell'ISIS, ma degli altri ribelli che lottano contro Assad. Ma io credo che le parole del ministro degli esteri di Mosca siano per metà vere, cioè è stato colpito anche l'ISIS forse, ma sono stati soprattutto colpiti i nemici di Assad, e per questo che Russia è intervenuta, perché Assad era alle corde, e non soltanto per l'avanzata dell'ISIS ma anche per la presenza di diversi altri gruppi anti-regime. Tra questi Jabhat al-Nusra, che comunque è inserita nella risoluzione dell'ONU tra i gruppi che si devono colpire, oppure l'esercito di liberazione siriano, oppure l'esercito della conquista, che è un altro gruppo islamico ma non inserito nella lista, come dire, nera degli obiettivi da colpire. E poi luogo, Il luogo è quello di Homs, soprattutto la provincia di Homs e i dintorni, ma non solo quella. Perché? Perché Homs è sulla strada strategica che collega il nord al sud della Siria e poi a ovest, verso il Mediterraneo, l'area di Latakia, il porto di Tartus, che è una base russa. Quindi, insomma, è chiaro che Mosca sta difendendo e tenendo in piedi il regime di Assad. Alberto, un'altra domanda a proposito della reazione americana, che ieri è stata molto dura, e anche qua entriamo nei ragionamenti sulla diplomazia. La tua impressione è che sia stata una reazione, in questo caso, anche un po' di facciata, perché tutto sommato agli Stati Uniti fa comodo, senza dirlo esplicitamente, che ci sia un sostegno ad Assad per sconfiggere l'ISIS, o è una reazione dura che può portare a un'escalation diplomatica violenta tra i due paesi, tra la Russia e gli Stati Uniti? Ma credo che Stati Uniti e Russia si siano anche messi d'accordo per non farsi male a vicenda, mi sembra abbastanza chiaro nei rapporti, nelle relazioni che ci sono tra i comandi. L'incidente è sempre possibile perché, come sapete, i caccia e i bombardieri hanno diversi codici di identificazione e quindi nell'identificare l'amico e il nemico possono esserci degli incidenti problematici. È proprio per questo che si sono parlati. Che la Russia possa togliere le castagne dal fuoco in Siria agli Stati Uniti, beh, su questo mi illuderei. Gli Stati Uniti peraltro non hanno fatto quello che avevano promesso, i bombardamenti al califfato sono stati totalmente inefficaci, ma non lo vediamo solo in Siria, ma lo vediamo soprattutto in Iraq, dove un terzo del paese è in mano all'ISIS, e a quel punto lì Assad non c'entra nulla. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. La guerra in Siria, come sapete, ha un grande impatto sull'enorme afflusso di profughi e migranti che sta investendo l'Europa. Dunque andiamo alle cronache da qua. La giornata di oggi fa segnare una rissa in un centro di accoglienza di Amburgo con feriti e danni, nel giorno nel quale Angela Merkel riceve dal suo ministro degli interni un parziale stop. Abbiamo limiti oggettivi all'accoglienza, dice il ministro in Parlamento, che aggiunge possono essere necessarie anche decisioni dure. In Italia, intanto, all'indomani dello sgombero di Ventimiglia, il ministro Alfano parla degli hotspot, ossia i centri di identificazione che dovremmo istituire in base agli accordi europei e che dovrebbero permettere la distinzione tra migranti e profughi. Per i migranti, ha detto Alfano, se non funzionano i rimpatri si rischia il collasso. Per questo abbiamo chiesto all'Europa che faccia accordi di riammissione con i paesi africani e finanzi i rimpatri. E sempre in Italia si è avuta notizia di attacchi ai profughi ospitati in un campo nella zona del Bione a Lecco, ma il presidente della Onlus che lo gestisce, Arca, smentisce. Sentiamo Alberto Sinigallia, intervistato da Valentina Furlanetto. In realtà è successo un fatto grave, ma isolato. 3 settimane fa, 2 ragazzi passando hanno lanciato una bottiglietta di plastica con, si presume, dentro urina. È finito lì, dopodiché c'è qualche sbotto ogni tanto delle persone che passano, ma non c'è mai stata nessuna provocazione rispetto alle persone dentro, per cui la realtà è che molti cittadini volontari vengono a dare una mano, c'è un buon clima, non possiamo dire che non ci siano intolleranze rispetto ai profughi, perché questo si sa che esistono, ma né più né meno nella media nazionale. Quante persone sono ospitate in questo campo profughi? 120. Attualmente sono in tenda perché sono stati inviati dalla prefettura e in emergenza quel 18 d'agosto, mi sembra. Da ieri stiamo montando dei container. Se mettete i container, mi viene da pensare che una situazione d'emergenza si sta stabilizzando. Quanto tempo staranno lì, insomma? Qualche mese. E sul tema dei profughi, in specie dei profughi siriani, si discute anche negli Stati Uniti, o meglio, a far discutere sono le ultime dichiarazioni di Donald Trump tra i candidati alla nomination repubblicana per la presidenza. I'm putting the people on notice that are coming here from Syria If I win, they're going back. They're going back. I'm telling you. Se verrò eletto, li rimanderemo indietro tutti, ha annunciato Donald Trump durante un comizio nell'Hampshire, scagliandosi duramente contro la disponibilità degli Stati Uniti ad accogliere nei prossimi due anni 200.000 rifugiati. Le parole più dure dell'aspirante candidato repubblicano alla Casa Bianca sono rivolte ai siriani, tra i quali il miliardario teme possano nascondersi miliziani dell'ISIS. Dall'inizio del conflitto, 4 anni fa, gli Stati Uniti hanno accolto 1.500 rifugiati dalla Siria e il segretario di Stato John Kerry ha annunciato che ne accoglieranno altri 10.000 nel 2016. Gli ultimi sondaggi danno Donald Trump come candidato favorito alle primarie repubblicane di novembre con il 21% delle preferenze e durante la sua campagna elettorale l'immobiliarista newyorkese aveva già espresso la sua posizione di tolleranza zero sull'immigrazione. L'ultima dichiarazione arriva a pochi giorni dall'appello del Papa a Washington di ospitare i migranti come fossero familiari. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla pagina della cronaca italiana, sulla quale tra l'altro torneremo più avanti, e ci spostiamo innanzitutto a Olbia, dove torna la paura di un'alluvione, o meglio, l'alluvione nei fatti c'è già stata questa mattina dopo quella del 2013 che fece 16 vittime. Come vi dicevamo già nei titoli, ad esondare è stato lo stesso fiume che provocò quell'alluvione del 2013. In diretta alla Sardegna il punto su quello che succede con Giuseppe Murru. Giuseppe, buongiorno. Eccoci qua, sì, buongiorno a voi. Prego. Dunque, la situazione al momento è la seguente: sul Cagliaritano sembra che il tempo stia in qualche modo migliorando, ci sono delle forti piogge ancora, però nulla assolutamente di preoccupante, come d'altra parte conferma anche la Protezione Civile. E poi però la situazione ora sta peggiorando nella costa nord orientale, in particolare a Olbia, dove appunto, come dicevate, da studio ha esondato ancora una volta il canale che era stato poi tra i massimi responsabili del disastro del 2013, che costò peraltro a Olbia, ricordiamo, 2 vittime, una donna e una bambina. Quindi questa volta si è riverificato, ci sono dei forti allagamenti, il sindaco Giovannelli ha appena fatto l'ennesimo appello alla cittadinanza di restare assolutamente chiusi dentro casa, a parte emergenze veramente tali, e se possibile per tutti quelli che ne hanno appunto l'opportunità di spostarsi nei piani alti, perché tutto attorno al rio, che ricordiamo passa all'interno del centro abitato, ci sono dei forti allagamenti. Allora, io ti ringrazio intanto Giuseppe Murru per questi aggiornamenti. Più avanti dovremo raggiungere proprio il sindaco di Olbia, Giovannelli, per fare un punto sulla situazione e anche per chiedergli dettagli su come mai a 2 anni di distanza di fatto a provocare danni sia lo stesso fiume che li ha provocati in occasione di quell'alluvione che tanto vi raccontammo nel novembre, a metà del novembre del 2013. Restiamo sulla cronaca con una vasta operazione contro usura ed estorsione tra Modena e il Veneto. Usura, estorsioni e riciclaggio sono queste le principali attività che da diversi anni un gruppo criminale avrebbe svolto nel distretto ceramico tra Sassuolo e Castellarano, in provincia di Modena. Un giro scoperto grazie alle segnalazioni di operatori finanziari che avevano notato operazioni di riciclaggio di denaro illecito. In un blitz della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di Modena, questa mattina sono state messe all'arresto domiciliare 2 persone di una già nota famiglia di pregiudicati. The Untouchables, gli intoccabili venivano chiamati, perché a proteggerli, secondo le indagini, ci sarebbero stati anche 3 carabinieri, adesso indagati per corruzione, abuso d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento. Tra le vittime anche un imprenditore di Sassuolo che, dopo la richiesta di un prestito, si era visto alzare i tassi di interesse fino al 400%. Pressato dai debiti, ha dovuto chiudere l'azienda trasferendosi all'estero, ma poi, come altri, ha denunciato quanto accadeva. Come racconta Lucia Musti, procuratore aggiunto della Repubblica di Modena. Alcune persone offese hanno anche reso dichiarazioni utili, dico alcune perché per altre si è alzato il muro di gomma, cioè l'omertà. Il GIP di Modena ha disposto per gli indagati il sequestro di 1.700.000 euro in titoli e beni immobili e di alcune auto di lusso. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tentenna in campionato e siamo al calcio evidentemente, ma sorride in Champions, è la Juventus. Possono Frosinone e Bologna far più paura di Manchester City e Siviglia? Domanda legittima se a farsela sono i tifosi juventini alla luce del primo scorcio d'annata bianconera. A dir poco titubante in campionato, la vecchia signora si scopre regina di coppa, con i successi su inglesi e andalusi che le permettono di ipotecare il passaggio agli ottavi. In realtà, dalla campagna europea e soprattutto dalla sfida col Siviglia arrivano indicazioni incoraggianti anche in chiave Serie A. Dal recupero del tedesco Khedira, all'inserimento di Dybala e Cuadrado, al killer instinct in zona gol di Morata. Segnali appunto che vanno confermati ora domenica dopo domenica, a partire proprio dall'imminente incrocio col battagliero Bologna. Dopo averlo fatto in Europa, Allegri punta ora ad espugnare lo Juventus Stadium, anche quando non risuonano i decibel dell'inno della Champions. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E stasera tocca all'Europa League, alle 19 la Lazio ospita i francesi del Saint-Étienne, mentre la Fiorentina è in trasferta contro i portoghesi del Belenenses alle 21, Legia, Varsavia, Napoli. Ora il traffico, ci ritroviamo tra un attimo, torneremo sui fatti di Olbia, sull'alluvione di Olbia e parleremo anche dei dati arrivati oggi sui conti pubblici. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sono stati 8 i raid russi in Siria questa notte, sono stati colpiti 4 obiettivi. La notizia è arrivata pochi istanti fa dal Ministero della Difesa di Mosca. Mosca che intanto replica le accuse: stiamo colpendo l'ISIS e non ci risultano civili feriti. Via libera del Senato all'emendamento che permette di escludere il voto segreto. Tornano sulle riforme costituzionali che dunque tornano in aula. Piogge intense colpiscono la Sardegna, esonda di nuovo il torrente di Olbia che provocò l'alluvione del 2013 nella quale morirono 16 persone. Sale di oltre l'1% il potere d'acquisto delle famiglie in un anno, scende il rapporto tra deficit e PIL, stabile la pressione fiscale. Il sindaco di Roma Marino sul Papa: se avessero chiesto a me non avrei risposto. Tegola Atac, si dimettono i vertici dell'azienda di trasporto pubblico locale della capitale, torneremo a parlare tra poco di questo, ma io intanto voglio salutare Gianni Giovannelli che è sindaco di Olbia e torna ai nostri microfoni. Sindaco, buongiorno. Purtroppo questi microfoni che si ripete dopo 2 anni questa drammatica alluvione, speriamo che gli effetti siano più contenuti e soprattutto che non si registrino. Intanto ci dà un quadro della situazione al momento, per favore. Beh, al momento la situazione è di relativa pausa, tranquillità, calma, però solo apparente, perché per le ore 15, dalle 15 in poi, è previsto un notevole peggioramento della situazione. In questo momento stiamo gestendo un briefing con tutte le forze di pubblica sicurezza, di volontariato, di protezione civile, per organizzare la strategia degli interventi che sono in corso già da ieri. Insomma, disponendo le forze in campo e demolendo strutture che in questo momento creano impedimento al libero del flusso delle acque, per cui insomma, speriamo di portare avanti il lavoro e che ci diano ancora un po' di tregua, sì, per poterci consentire Senta sindaco, quante famiglie sono evacuate al momento? Ma non è tanto in questo momento il numero delle famiglie, ma sono interessate aree comunque dove vivono alcune migliaia di persone, per cui è chiaro, sì, che al momento sono poche e non sappiamo bene quali sono ancora le famiglie che hanno paura di rimanere al piano terra in preoccupazione appunto che possa arrivare una nuova ondata di alluvione, certo, e quelle che invece hanno già avuto l'alluvione hanno già avuto 1,5 metri di acqua in casa e a quel punto dovranno essere per forza ospitati, certo, in centri di accoglienza, certo, o in albergo. Senta sindaco, mi spiega una cosa, le chiedo se se può, di alzare lievemente la voce, perché poi abbiamo delle persone che parlano in sottofondo. Immagino che sia in riunioni piuttosto complicate, però insomma il rischio è che gli ascoltatori non riescano a sentire. Io la sento bene in cuffia, ma magari gli ascoltatori non la sentono. Quello che le voglio chiedere è questo, lo abbiamo detto anche nei nostri titoli: è esondato lo stesso torrente, lo stesso fiume che esondò 2 anni fa, e ci sentimmo lungamente in quei mesi, ci siamo sentiti anche l'anno scorso ad un anno di distanza, e che provocò quelle 16 vittime. Ovviamente qua ci chiediamo come sia possibile. Beh, intanto le vittime furono 6 a Olbia, le altre sono registrate in altri comuni, in altre porzioni del territorio, però sempre un numero, voglio dire, elevatissimo di persone. Il fatto è che Olbia ha un reticolo al momento di canali totalmente inadeguato, perché vecchi canali di bonifica oppure fiumicciattoli che poi col tempo e con l'abusivismo edilizio e con l'urbanistica non controllata sono stati interessati da tombamenti o quant'altro, per cui c'è questa fragilità. No, ma io sono d'accordo, Giovannelli, mi scusi, questo mi è chiaro, però è la stessa cosa che ci dicemmo 2 anni fa, un mese dopo quell'alluvione, e io vorrei capire perché in 2 anni non si è cercato di provvedere, o forse si è cercato di provvedere, no, ma magari non si è riusciti. No, assolutamente. Noi in questi 2 anni abbiamo speso oltre 20 milioni di euro. Tenga conto che i lavori complessivamente per mettere in sicurezza il territorio costa quota circa 125-130 milioni di euro. Noi abbiamo portato avanti in questi 2 anni opere di messa in sicurezza, abbiamo fatto dei lavori importanti, anche delle demolizioni di opere incongrue, e abbiamo predisposto un progetto che è stato in parte anche finanziato, e di conseguenza abbiamo fatto dei passi da gigante rispetto a 2 anni fa, e le opere sono in corso. Purtroppo opere come quella di realizzazione delle casse di laminazione, che necessitano di valutazione di incidenza ambientale o di valutazione di ambientale strategica, e tutto il resto, e tutte le procedure per validare i progetti, necessitano di tempi ben più lunghi di 2 anni. Quindi in sostanza mi scusi Giovannelli, per dirla proprio molto semplice, siete stati bloccati dalla burocrazia in sostanza? No, io questo non lo dico, anzi la regione e il governo sono stati velocissimi nel potere nel autorizzare. Noi abbiamo avuto un mese fa praticamente il via libera per questi progetti, per portare avanti il primo lotto funzionale con un finanziamento di 20 milioni di euro, per cui da questo punto di vista io non parlerei di burocrazia o di lentezza delle procedure, che sono comunque procedure complesse, capisco. La legge prevede tutta una serie di passaggi, ripeto, chi tecnici e chi comunque gli amministratori, quando si parla di valutazione ambientale strategica piuttosto di valutazione di incidenza ambientale, sanno bene che non si parla certamente di settimane o di giorni di procedure. Però sono lunghe. La ringrazio, Gianni Giovannelli, e la lascio ovviamente a gestire questa nuova emergenza ad Olbia, sperando che le cose non peggiorino. Come avete sentito, ci ha detto che dalle 15 dovrebbe iniziare a piovere forte, speriamo che vada tutto bene. Una vicenda di corruzione della quale abbiamo solamente accennato ieri, che riguarda il comune di Milano, che riguarda anche un ex dirigente del comune di Milano. Sono stati trovati addirittura dei lingotti d'oro alle persone che sono state arrestate. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì Simone, il caso arriverà lunedì nell'aula di Palazzo Marino, e allora l'inventario del tesoretto trovato ai dipendenti indagati e i dettagli anche delle opere sotto accusa potrebbe essere ancora più dettagliato e lungo, ma già ora sta di sicuro provocando un terremoto in uno dei settori più delicati del comune di Milano, quello delle case popolari e dell'edilizia pubblica. A Palazzo Marino infatti c'è un'area assai pesante, non solo dall'altro ieri dopo gli arresti che abbiamo ovviamente raccontato, ma particolarmente pesante soprattutto soprattutto da ieri, dopo che è cominciata a circolare la notizia del bottino da 2 milioni di euro trovato ai due dipendenti e all'ex dirigente arrestati insieme ad un imprenditore in un'inchiesta su un presunto giro di mazzetti dietro gli appalti nelle case Aller e nelle scuole. 32 lingotti da un chilo, contanti per 520.000 euro, 19 orologi e gioielli, un tesoretto che gli indagati hanno giustificato come beni di famiglia, ma che per gli inquirenti sembrano sproporzionato rispetto ai loro guadagni ufficiali. Il sospetto infatti è che i due dipendenti, insieme ad un ex consulente esterno, Luigi Mario Grillone, poi allontanato dall'attuale giunta, fossero diventati in sostanza soci occulti dell'imprenditore Marco Volpi, che poi si aggiudicava i lavori di manutenzione, e lui, secondo l'indagine, almeno stando al momento attuale, li ricompensava, e ricompensava soprattutto Grillone, figura centrale dell'inchiesta, con una mensile da 5.000 euro, una Porsche, ristrutturazioni per case e barche e perfino un televisore. Anche di questo l'assessore Carmela Rozza riferirà lunedì in aula insieme al quadro sui 150 appalti annuali del settore ora sotto accusa, ma le perquisizioni della Guardia di Finanza sono proseguite ancora ieri e potrebbero estendersi anche al settore dell'acquedotto. L'impressione insomma è dunque che l'indagine possa essere ancora più ampia di quanto non possa apparire all'inizio. Simone. Grazie alla nostra Raffaella Calandra per questo aggiornamento su questa inchiesta che riguarda il comune di Milano. Io vi devo dare intanto una notizia che è stata appena battuta dalle agenzie, che è importante perché l'International Council of Clean Transportation, l'ente che ha scoperto il trucco della Volkswagen, parla di consumi ed emissioni reali molto più elevati di quelli omologati anche per le auto ibride e soprattutto per le ibride plug-in, quelle con maxi batteria. Questo è quello che ha denunciato appunto l'ICCT, questo ente fa l'esempio della Mitsubishi Outlander PHEV. Sicuramente avremo occasione di tornare a parlare di tutto questo. Abbiamo parlato del Comune di Milano, parliamo del Comune di Roma e del caso del sindaco Marino. Ed è per questo che diamo fastidio, perché stiamo cambiando, ma questa città cambierà. Lui, il sindaco più contestato del mondo, messo all'angolo perfino dal Papa, ospite di Uno Mattina, dice che sta ricostruendo Roma, ma intanto, col Giubileo alle porte, la città perde pezzi e credibilità. E ora l'ultima grana dell'ATAC, l'azienda di trasporti rimasta senza vertici. Marino si difende così. Nei 4 anni precedenti, durante la giunta Alemanno, si è creato un deficit di 874 milioni di euro solo nel settore dei trasporti. Io ho rimesso in ordine i conti, adesso stiamo ripartendo. Ma intanto piovono nuove accuse sul famoso viaggio negli States. Per quello che riguarda le mie spese, le spese di una persona che lavora con me, che mi ha accompagnato anche alla conferenza che ho tenuto all'inizio dell'anno accademico della Temple University, è stato tutto sostenuto da un'università americana, la Temple University. Mi ha accompagnato anche un ambasciatore che lavora in comune e il capo del cerimoniale, e quelle spese sono state sopportate dal comune, come è normale, come sempre è stato per tutti i sindaci delle grandi o delle piccole città. Ammontano a 15.000 euro queste spese? Conto esatto non lo conosco. Glissa sul Papa, dicendo che il Vaticano ha smentito Monsignor Paglia. Infine la fatidica domanda: ma perché Marino non c'è mai quando serve? Non sono un sindaco sceriffo che gira con le pistole, io faccio il sindaco. Le pistole no, ma stare ogni tanto almeno nel suo ufficio potrebbe. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, ci troviamo tra un attimo per la borsa e poi nella seconda parte della trasmissione parleremo dei conti pubblici, ancora una volta dei bombardamenti russi in Siria. Tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sono stati 8 i raid russi in Siria questa notte, sono stati colpiti 4 obiettivi, lo dice il Ministero della Difesa. Anche le auto ibride barano su consumi ed emissioni, e a dirlo è la stessa organizzazione che ha fatto emergere lo scandalo Volkswagen. Maltempo a Olbia, dove esondato un torrente sta riprendendo a piovere. Delibera del Senato l'emendamento cosiddetto canguro, che consente di far saltare il voto segreto e su una serie di altre proposte di modifica. La borsa. Invesco. Per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Adesso ci occupiamo di conti pubblici. Perché? Perché questa mattina l'Istat ha diffuso molti dati, tra questi anche il dato sul potere d'acquisto delle famiglie, una crescita più forte dal 2007, un più 1,1% in un anno, ma anche, come si diceva, i dati sui conti pubblici, con il rapporto deficit-PIL che nel secondo trimestre è risultato pari allo 0,9%. Inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2014. Il rapporto nei primi sei mesi del 2015 del 3,2%. Saluto Dino Pesole del Sole 24 Ore. Buongiorno Dino e benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Allora, visto che sono dati sui tre mesi o sui sei mesi, e di solito questi calcoli li facciamo sull'anno, ti chiediamo un aiuto ad interpretarli. Quanto li dobbiamo giudicare positivamente, negativamente, quanto invece non li dobbiamo considerare affatto? Ma secondo me sono la conferma di una tendenza che dimostra che il deficit di quest'anno con ogni probabilità sarà ampiamente al di sotto della fatidica soglia del 3% del PIL. Questo perché lo dico? Perché se il primo semestre chiude con un deficit, che poi si chiama indebitamento netto nella versione europea, del 3,2, normalmente gli ultimi mesi dell'anno sono più favorevoli ai conti pubblici, ed è anche semplice comprenderlo perché c'è un forte afflusso della fiscalità attraverso l'autotassazione di novembre, e dunque con ogni probabilità quel 2,6 che il governo ha previsto per quest'anno sarà rispettato, e questo viene dalle conferme che arrivano oggi dall'Istat. Poi naturalmente la scommessa è con la prossima legge di stabilità, che peraltro arriva tra due settimane, per capire come andrà nel prossimo esercizio, che è quello decisivo per provare a fare uscire il paese dalla recessione e avviarlo finalmente verso una crescita stabile che non sia dello 0, qualcosa come quest'anno. Ed ecco lo 0,4 di differenza tra il 2,6 e il 3% che è il limite che il governo vorrebbe sfruttare appunto per fare una manovra, come si dice, espansiva, Dino, no? Sì, in realtà per il prossimo anno il governo in precedenza aveva previsto un deficit dell'1,8 a politiche invariate, quindi lo spingerà fino al 2,2 e con ogni probabilità anzi arriverà al 2,4, perché conta anche di avere un margine di flessibilità per far fronte all'emergenza migranti. Quindi con la prossima legge di stabilità possiamo dire che ci saranno circa 10 miliardi di flessibilità, per ora solo chiesta, non ancora ottenuta, che vale più deficit, però tradotto in termini un po', come dire, brutali dice, sì. Sì, e poi c'è tutto il resto, c'è da finanziare la manovra sulle tasse, quindi ci vogliono 5 miliardi, ed è in campo questa fantomatica, non ancora ben definita, spending review, che è la vera scommessa di questa legge di stabilità. Io ti ringrazio, grazie a Dino Pesole del Sole 24 Ore anche per la tua chiarezza, e saluto Andrea Margelletti, presidente del CESI, Centro Studi Internazionali, e tra l'altro è stato consigliere strategico del Ministero della Difesa. Margelletti, bentornato ai nostri microfoni, e vado subito con la domanda perché abbiamo pochissimo tempo. Vorrei sapere come giudica l'azione russa in Siria. Un'operazione politica che serve a far capire a tutti, agli Stati Uniti e all'Europa, che loro, a differenza nostra, hanno una strategia, né più né meno, tant'è vero che i russi non sono dedicati a colpire esclusivamente l'ISIS, ma anche e soprattutto coloro, tutti coloro, ma l'ha detto Putin chiaramente, che non sono a favore di una transizione, diciamo, democratica nei confronti di Assad, e quindi praticamente colpiscono tutti quelli che sono contro Assad. Lo diciamo anche prima, anche i ribelli non necessariamente legati all'ISIS, appunto, al cosiddetto califfato. Le rivolgo una domanda che abbiamo fatto poco fa anche ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, in apertura, perché è un punto interessante secondo me. Quanto in realtà potrebbe fare comodo agli americani, cioè di facciata dire, insomma, noi Assad non lo vogliamo tenere là, anzi lo vogliamo buttare giù, ma in realtà c'è qualcuno che in qualche misura ti toglie un po' le castagne dal fuoco con il califfato. Guardi, il dramma vero è che in queste settimane si continua a parlare tutto tutti ad ogni livello, dai media ai cosiddetti sedicenti esperti come me, al mondo della politica, di abbattere Assad. Tutto questo è bellissimo naturalmente, ma nessuno dice una cosa chiara, che l'Occidente non ha tirato fuori uno straccio di candidato plausibile che abbia l'autorevolezza almeno pari a quella di Topo Gigio. Quindi il vero problema nostro non è soltanto bombardare in maniera intelligente o meno gli obiettivi del califfato, ma soprattutto la nostra assoluta incapacità di trovare una minima classe dirigente che possa essere credibile nei confronti del popolo siriano. Questo è l'immane fallimento occidentale. La ringrazio, Andrea Margelletti, presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, tra l'altro è stato consigliere strategico del ministro della Difesa, e non soltanto. Il traffico, America 24 con Mario Platero, che tra l'altro ci riporterà su questi temi. Ci ritroviamo alla fine per i saluti.